457. Sì. Precipitazioni. Affanculo. Molte precipitazioni. Metti a sassari. Precipitazioni 0%, umidità 56%, vento sempre, vedi questo venticello, dagli 11 ai 15 km orari. Però adesso 17 gradi per domani, sole, domenica sole giallo, bello, mi fa piacere. Natalino, si è perso? E io ne ho due, uno col cratter e l'altro su internet normale, ma li ho spenti tutti e due perché mi stavano facendo la testa a pallone con le ventole. È un caldo allucinante, Natalino, se devo tenere la finestra aperta, perché? Da voi me le mandate a essere chiesto l'amicizia, io ce l'ho bloccato Facebook, già è un anno che non lo uso. E ce l'ho nell'altro telefono, lo devo prendere e mettere in questo qua, Natalì, perché non tutti ce li ho. Me lo prendo, ti chiamo io e così mi dai il numero. No, Facebook ce l'ho, c'è Claudio Sparviero Marti, c'è un MC60 nella foto, ma è bloccato, non lo uso. Nel senso, non è bloccato, se vado funziona, ma non lo uso, capito? Mi pare ci siano 6 o 7 amici, non è una cosa che mi interessa Facebook, Natalì. Cioè, basta leggeramente che vi so, pure Facebook vivo. Ho capito. Ma vabbè, ti chiamo, cerco un numero adesso, ti chiamo, se non ce la faccio stasera domani, il numero tuo, quello che c'ho sempre io, ti metto su WhatsApp e così, se mi devi mandare qualche foto, qualcosa, non c'è problema di usare Facebook, capito? Chi ce l'ha? Marco? Allora me lo faccio da Marco. Mandami il numero di Natalino su WhatsApp, così me lo segno, lo aggiorno e lo inserisco su WhatsApp o Marco. E che cazzo l'ha trovato lei questa foto di tuo Citafugio di radio? E che ne so, questa cacca di linea Wind non mi scarica nulla, è in zona d'ombra qui, aspetta. Ma immagini ancora qui tu indica, ma ci vuole la team, ci vuole team e Vodafone, sono i migliori, o cos'è Wind 3, 4, 5, Wind e Vodafone, boh, basta. Questo è Wind, team vuoi dire? Cioè team, sì, team e Vodafone, boh, basta. Oh, io al computer ce l'ho 3, la verità, non mi ha mai lasciato a piedi, sempre un ottimo segnale, sempre a manettone. Va benissimo, adesso purtroppo sto andando anche con il wifi, perché sto usando tutti e due i computer e ti dico che sta andando bene, sto toccando le palle perché sta andando bene, mi ho attimito a Luca del Monte, l'ho staccato per portare da lui Natalia, prima di portarlo voglio aprire, vedi cosa c'ha, era un mare di polvere dentro, proprio di lana, l'ho tutto pulito, soffiato, scollegati i cavi, puliti col coso disossidante, riattaccato tutto, ha iniziato a funzionare alla perfezione, proprio bloccato, accendeva e non dava niente, nulla, non appariva niente nel monitor, niente, bloccato, nulla. Adesso è perfetto, ho fatto tutti gli aggiornamenti, ce n'erano un mare, ho rimesso l'antivirus, ho fatto tutta la pulizia, il disco rigido, tutto, pulito, ordinato, adesso funziona, da stamattina acceso, mi ha aggiunto natura, sempre sul cluster, però poi a metà mattinata mi è sparito il nodo, evidentemente non so che è successo. Allora sono uscito da quello, ne ho messo l'altro, quello di Genova, meno 8, anziché meno 9, e tutta la via stesso, tutto il giorno, capito? Adesso domani riprovo con meno 9 che più mi piace di più, cioè le scritte più belle, capito? Più ordinate, più complete. Vediamo se funziona, se non le lascio quello meno 8, poi quando viene Stefano lo controlla lui. Oh, questo non si è mai disinstallato, mai, mai, poi mai. Mai. pochino di gas e su di là in alto, e ha sempre funzionato bene, proprio da sempre, sempre, sempre. Poi mi si è parlato il computer, e quindi mi ero rotto le male, perché un po' funzionava, un po' non funzionava, l'avevo messo da parte, senza sapere che era completamente a revisionare. E lo sono comprato nuovo, ma fatto avere Luca, Luca del Monte, capito? Un Lenovo, ho preso tutto nuovo, tastiera della Lenovo, computer, mouse, monitor da 22, questo invece del cluster da 19, bello tutto nuovo, e quella è una bomba, quella è velocissima, e uso solo per internet quello lì, capito, per lavoro che è veloce, mentre questo invece solo per il cluster, ed è proprio a fianco alle radio, l'altro è dall'altra parte, organizzato la perfection, perfection. Beh, pipistrelli, mi domandi chitarra radio, non me la mandi, cosa si mi siede di qua? Boh, non trovo la foto da mandare, l'ho scaricata ma non la trovo, dai. Scaricata, io me lo guardo io al computer, non ti preoccupare. Poi ti ripeto, quando decidi me lo fai sapere. Io lo porti qua, lo proviamo, se vuoi me lo lasci, lo sai, è come che sia lì da te, lo proviamo, lo faccio sentire, te lo sbollogno subito, non ce n'è problema. Cavolo, è 8:30 sono. Dai, non trovo la foto, c'ho troppe cartelle e non la trovo, dai, guardatelo su Google, metti 857, immagini e lo vedi. Su Google 857, immagini, Google, vediamo, Google. Come faccio a scrivere? Non eccolo qua. Non scrivo. Cerca 857, devo scrivere, immagini. Oppure Yaesu. Yaesu, FT 857. E poi premi immagini. E poi immagini. FT 857. 8, mi domi, effettivamente 57, aspetta, lista marchi, media globe, no, eccolo qua, e teoria globe, eccolo qua, sì, ho capito qua, 857 D c'hai tu, no? Eia, la versione D, perché l'857 senza nulla era una vecchia versione, vecchia, le prime. Eia, disponibile nel magazzino con ampliamento di banda 7,49. Boh, voglio dire una pelle in occhi, ui, chiami a te, ma chi trego un parato non gioco io. Me lo sto chiedendo anch'io, volevo qualcosa più del Kenwood, che avesse tutte le bande, ma quello al limite era in previsione della patente, poi ho visto che non mi interessa, troppe cose da scrivere, cluster, non il cluster, poi di, se vuoi fare collegamenti buoni ci vuole un'antenna buona, dai, o più antenne, capito? Io cosa faccio? Mi metto la CP6 a far ridere i polli, per carità. Oh, vabbè che la gente modula dalla macchina, modula la macchina e fai VX. L'importante è trovare la zona giusta, la propagazione giusta. Ah, gli stili della Echo antenne, ognuno per ogni banda. No, ma che? Io visualizza tutto, ma questo è bello, 897 è bello. No, io ci credo, perché non dovrei crederci? Li conosco gli stili dall'Echo. E come se li conosco? Sarà la ATAS 120. Che bello che è però l'FTM 400 XDR Natali. Il bibanda, quello della Yaesu, grande. A lui, sfavoloso. Anche te. Non ho capito cosa hai detto. Si è arrivato un negozio informativo. Qualche incidente c'è? Tu non traslare, dai, se no puoi. No, no, scusa, c'era un volume alto, io ho scelto un metodo di colare con la scorsa. Eccolo qua, l'FTM 400. Sì, molto colorato. C'ha il display grande, anche alto. Aia. E questo cos'è però? Vediamo. Ah, sempre VEU, ho capito. Bello però, molto bello. Quello è un bel vibrante. Bello visivo, grande. Sì. Molto bello, molto bello. Cosa c'è cosa cos'è? L'8000? Questo non è un franco, cos'è? L'8008? Comunque è vero, dice, per il prezzo, dice, gatti la fattura, era meglio andare a mignotte o no? No, ma là, a prescindere, sai, io scherzo, però, cioè, per l'uso come facevi tu, cazzo, potevi andare su una cosa più, non so, quella cosa ti serve, non serve a nulla, capito? Lo so, ma fissazioni mie, fissazioni, piaceva da morire e ho detto lo devo trovare, lo devo prendere. Poi sempre così, una volta quando non ce l'hai la brami, la desideri, poi una volta che ce l'hai non te ne affutti nulla, capito? Tutti morti? 391, questo è cos'è? Effettivamente non capisci una cosa, si vede al mondo con una T-Tunnel. Questo non lo conosco, non è uscito questo. Allora, l'FT991 è il sostituto dell'897, capito? Però c'ha un bel display con la colori, con come si chiama quello? Ti fa vedere la banda, come si chiama? Non me li ricordo. Il non stop, come quello che ho io, dai, nella radio che ho io, ce l'hanno tutte e tre. Ce l'hanno tutte e tre, sia lo Iaeso che l'Ico. Sì, ho capito, io non si è venuta quel mondo. Non è che, fammi vedere, non è che serve, quanto costa? 999 euro, sì. 1000 euro, prima di una banda, acquista, non ci acquista nulla, ora la mezza è vetro, che dai, poi ci vuole, la cosa dice che faccio. Ultima io fino a disarmamento merci, va bene. Comprare. Compro, vendo, scambio, compro. Lui, lascia verde. Scarica il Fed, cos'è Marco? Te lo scarica il Fed. Allora aspetta, abbasso il volume, sennò qua non capisco nulla. Ma solo prove radio sanno fare, dimmi. Adesso lui fa. Ho detto, mi è uscita una sita a scaricare il Fed, cos'è? Ah, non lo so cos'è. Tu non scaricare nulla, mi. Non ci carica nulla, vero, mi. Adesso scarico. Sto spegnendo le V, le U, che c'erano tutti anche i gemellini accesi, c'erano. Non vuoi un cane, yes. Ma non fai di radio. Ciu. È schifo, yes. Per carità. Non vuoi un cane, non vuoi un cane. L'unico che ho sentito oggi durante il giorno mi è sul ponte quello di Itri e buh, basta. Per il resto niente. Bagnato è. Ah, ci mette la testa nelle piante. Già ci lascio, se no pigliare un po'. E poi si bagnate, c'è finito poi bagnarci la testa bagnata. Vieni a nonno, tu papà, mi marco, c'è. Va vai alla Marco. Ma vai all'altro a nonno, ma vai alla nonno, vieni, chi c'è? Senti, oh, chi c'è? Guarda, vai, abbaia. Anche come la ti chiamano in basso, che com'è un cane, una iatta. Ehi, no, vale, quando è fuori già si sveglia quando è fuori, è sempre pronto lì, è sempre, come si dice, sul chi va là, io. Io non devo fare il cane, dai. Beh, Fede Margosa, io vado a mangiare, va, che siamo novetti. Ciao ragazzi, ciao Antonino, e signora, ho sentito anche sotto. Ciao Marco, saluto mia mamma, eventuali ascoltoni buoni, non qua, non carogne, A domani, ciao! Quanti ti vedere ti idratari, Claudio, dillo! Allora, non qua, non carogne! Come diceva Walter, no ciu, no qua! Io quella era una cosa che ha girato il mondo, solo lui ce lo può permettere, io dico sempre la mia, in onestà e in tranquillità. Ciao, a domani ragazzi, ci sentiamo, buona domenica a tutti, dai, domani mattina io sarò in attivo un po' in radio perché c'è un'attivazione, quindi voglio essere presente, me l'hanno chiesto e quindi un po' di collegamento dovrò fare, perciò domani mattina sono a casa alle 10 a mezzogiorno, quindi se vuoi accendere la radio io sono in radio Marco, ok? Idem anche per te, Tattalino, ciao! Ciao Claudio, ma ti ricordi come diceva? Né ciu, né qua, né malu pagadores. Eia, va bene dai. Tu comunque altro che pillacciare, hai visto che la Juve le ha sfasciato la canna a quell'altra squadra? È ovvio, ora tocca all'Empoli. Adesso tocca all'Empoli, capito? Domenica mi pare. Domenica tocca all'Empoli, perciò. E poi mercoledì tocca anche al Porto, oramai la Juve non ferma più nessuno, è troppo forte, non c'entra a fare questo nuovo modulo che ha fatto Allegri, sfascia il culo a tutti. Vabbè, no, poi lo sai, io qua c'ho la civetta, no? Te l'ho detto, ti ho fatto anche la foto, ho visto sopra il rosmetro vatt, mentre a fianco all'amplificatore c'è la civetta, quindi come mi buoni civetta la borsa del Niaos. Ciao, a domani. Ciao Claudio, buona cena, buon tutto, a domani, dai. E adesso vado e mi scelgo un film e poi mi corico bello con le coperte sopra, che faccio il bagno di caldo, mi faccio. Ciao Nathalie, buona serata anche a te, ci sentiamo domani, ciao. Ehi, buonanotte, a domani.